A tempo di sport con Claudio Arrigoni. 1704 800 24 0024 il numero verde per collegarsi con A Tempo di Sport, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Eh sì, cominciamo da dove ci eravamo lasciati, con polemiche sul calcio. La Juventus, come avete sentito nel notiziario, che alza il primo trofeo della stagione, Supercoppa Italiana, a Pechino, batte il Napoli 4-2, ma ci sono già tante polemiche. Bianconeri che rimontano due volte, prima con Samoa, il gol di Cavani, poi con Vidal su rigore, quello di Pandev, poi Mazzolini e Spelle, prima il Macedone per proteste, ingiurie, non si è capito benissimo, a un guardaline, e poi Zuniga per doppia ammonizione, poi ancora Mazzarri per proteste supplementari che vedono quindi il Napoli in 9, Juve che poi dilaga, autogol di Maggio, un autogol fra l'altro stranissimo, quasi una bellissima azione d'attacco per Maggio, poi rete di Vucinic e il Napoli che diserta la premiazione, prima volta che accade una cosa del genere. Napoli che non parla dopo la partita, silenzio stampa anche per la Juventus, anche se qualcuno aveva già parlato, aveva già iniziato a dire qualcosa subito dopo la partita. Insomma, tante polemiche, andremo ad affrontare questo argomento, ma naturalmente parleremo anche di Olimpiadi che vedono in campo oggi una finale attesa, perché era la finale dove finalmente il Brasile era destinato a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, unico trofeo che manca alla squadra brasiliana, alla squadra di calcio naturalmente brasiliana, e invece il Brasile la partita non sta andando come nei pronostici. È vero, Dario Ricci, inviato di Radio 24 a Ronda. Dario. Sì, buon pomeriggio dallo stadio di Wembley, spettacolo e cornice di pubblico fantastica per questa finale del torneo di calcio. Siamo al cinquantesimo siamo al quinto della ripresa, cinquantesimo di gioco, e a sorpresa il Messico è in vantaggio per 1-0 dal primo minuto. Con il gol di Oribe Peralta c'è stato un pallone che aveva l'apparenza innocuo, che Rafael stava provando a gestire sulla destra, il passaggio all'indietro verso Sandro che ha toccato con sufficienza, ecco lì che la palla è finita a Oribe Peralta, che con un destro dal limite assolutamente non trascendentale, pensate, il pallone è rimbalzato addirittura due volte prima di arrivare verso la porta, ha ingannato però Gabriel, il portiere neoacquisto del Milan, che è sembrato particolarmente goffo nell'occasione. Quindi un Brasile, cioè, diciamo, un papocchio difensivo in cui hanno contribuito in tre, e il Messico è andato meritatamente in vantaggio. Ci è venuto un bel po' per il Brasile per rientrare in carreggiata, tant'è che al 32esimo Menezes è corso ai ripari, ha sostituito il difensore Alex con Hulk, entrambi del Porto, è passato da un 4-4-2 a un 3-4-3. È arrivata qualche buona occasione per i brasiliani proprio dal piede di Hulk, soprattutto al 38esimo con una bella respinta del portiere Corona, ma insomma un Brasile che procede al piccolo trotto, e finora i messicani tutto sommato non hanno fatto troppa fatica a contenere i verde oro. E passano i minuti, Claudio, come puoi immaginare l'ansia della torcida sale, perché perdere questa occasione in un torneo in cui non c'è stata neppure l'Argentina sarebbe veramente un delitto per i verde oro di Menezes. Dario, poi ci racconterai, naturalmente stiamo in contatto, ci racconterai come sta andando la partita, ci racconterai di Pato, di Lucas, insomma, che non sono entrati dall'inizio della partita, ma Dario, ti avverto che appena torni in Italia qui infuriano le polemiche. Se la Juve deve vincere per forza è inutile giocare le partite, l'ennesima dimostrazione che gli scudetti della Juve saranno una decina circa, il Napoli ha fatto bene a non partecipare alla premiazione. Questo uno dei messaggi che sono già cominciati a arrivare al 349-238-6666 qui a Radio 24, quindi Dario, preparati. Eh sì, infatti devo dire, mi voglio vedere questi ultimi 40 minuti di un recupero di calcio olimpico, perché invece chiaramente gran correttezza in campo, spirito olimpico, inni nazionali salutati come si deve, beh, insomma, tutt'altra atmosfera rispetto a quella di una Pechino che pure olimpica è stata, no? Pure però olimpica, sì. Napoli, le rappresentanti, il Napoli non ha partecipato in segno di protesta nei confronti dell'arbitraggio, non ha partecipato alla premiazione, l'ANSA che certifica quello che era stato detto, quindi Napoli molto molto arrabbiato. Un altro sms che è arrivato al 349-238-6666. Dice: comportamento non sportivo e troppo polemico quello del Napoli, si vince e si perde, dice Paolo. Poi ancora Giovinco andava ammonito per la seconda volta e giustamente espulso. Dario, se sei ancora al microfono, ti arriva un sms sui pronostici che non sono stati propriamente tutti azzeccati, quelli che hai fatto ieri con Stefano da Bologna. No, ce lo ricordo, anzi penso di aver ringrazio Stefano, perché mi sentivo in colpa, perché sull'onda dell'emotività ho fatto dei pronostici, ma dall'inizio dell'Olimpiade che li sbaglio. Quindi, vabbè. Ragazzi, portate pazienza ancora un giorno. Solo chi non li fa non li sbaglia mai, Dario. Va bene. Sta in contatto naturalmente, perché ci deve aggiornare su questa finale fra Brasile e Messico, ma vogliamo notizie anche di Pato e di Lucas. È uno dei giocatori che si annunciano come protagonisti del campionato italiano del prossimo anno, perché è una grande scommessa quella di un ritorno al 100% di Pato, che fa il Milan, è uno dei possibili protagonisti. Vedremo come andrà la trattativa per portare Lucas all'Inter. Se cominciamo così possiamo far senza giocare il prossimo campionato. Un altro è degli SMS, speriamo che non siano tutte partite con le polemiche che ci sono state per questo primo trofeo della stagione. 800 24 00 24 per commentare quello che è successo a Pechino. 349 238 6666. Ma andiamo ad ascoltare alcune delle pochissime voci che ci sono state subito dopo la partita, perché in campo sì, qualcuno ha parlato, poi silenzio stampa per entrambe le squadre, con molta molta polemica da parte del Napoli. Carrera, che era in panchina perché Conte, come sapete, è squalificato 10 mesi, quindi prove generali anche per quello che sarà il campionato, con Carrera in panchina, che ha detto fra l'altro che non sono arrivati messaggi da parte di Conte. Sentiamo cosa ha detto invece riguardo alla partita. Sì, devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto un'ottima partita e siamo contenti per questo. Ma sicuramente il primo pensiero va al mister. Noi abbiamo dimostrato di essere tutti uniti, remiamo tutti dalla stessa parte, sappiamo tutti quello che vogliamo e dobbiamo continuare a lavorare. Ripeto, io ho visto un po' loro che facevano caccia all'uomo, quando erano in vantaggio facevano un po' di ostruzionismo, quindi gli unici errori che sono stati fatti li abbiamo commessi noi sui loro 2 gol, quindi non so cosa dire. 2 errori difensivi per la Juventus, questo è vero, è stato un po' il reparto su cui più probabilmente si dovrà lavorare da parte della Juventus, quello difensivo. Asamoah invece, che è stato probabilmente il miglior giocatore in campo oggi insieme naturalmente a Cavani, anche che per il Napoli ha giocato benissimo, soprattutto nel primo tempo era veramente onnipresente. Asamoah dunque sulla vittoria. Secondo me abbiamo fatto una partita molto difficile, perché Napoli è una squadra, io rispetto anche tutte le squadre in Italia rispetto a questa squadra, perché Napoli non è una squadra normale, ma noi abbiamo mollato di primo tempo, perché abbiamo perso 2-1 di primo tempo, abbiamo recuperato il secondo tempo, pareggiamo e poi recupero, abbiamo fatto 2 gol, perché questo è lo spirito della squadra. Lezione di sportività da Pechino. Dopo il maldestro tentativo di spionaggio, il rifiuto di partecipare alla premiazione. De Lamentis non si smentisce mai. Napoli e napoletani, ridicoli, hanno piccato per tutta la partita e poi fanno pure le vittime, scrive Giordano. Due degli sms arrivati al 349-238-6666. Una decisione, quella di non partecipare alla premiazione, che era stata un po' anticipata da Marotta subito dopo la fine della partita. Ma io so solo che il presidente Beretta ha invitato il presidente De Laurentiis a partecipare, però poi onestamente non so dire di più, non mi sono addentrato negli spogliatoi. Questa è la vittoria di Conte, in quanto ha preparato durante la settimana, nei giorni precedenti, la partita in modo impeccabile, ed è la vittoria per Conte, perché i giocatori gliela volevano dedicare, sono riusciti in questo intento contro un Napoli sicuramente impegnativo, però mi pare che sia stata una vittoria legittima dal mio punto di vista. Vittoria legittima, dice la Juventus, non così il Napoli. Ripeto che per la prima volta non ha partecipato alla premiazione, in grande polemica con l'arbitraggio di Mazzoleni, ma non soltanto. Avremo modo di parlarne nei prossimi minuti. 800 24 0024 per commentare naturalmente anche le Olimpiadi, ma in particolare questo Juventus-Napoli che apre la stagione del calcio italiano fra le polemiche. 800 24 0024, il nostro numero verde. Naturalmente parliamo di Juventus-Napoli, in particolare dopo le tante polemiche che sono venute, ma non soltanto, anche di Olimpiadi. Il Brasile che perde con il Messico la finale olimpica 0-1, e questa è una notizia che interesserà particolarmente al nostro primo ospite di oggi, ed è con vero piacere che è con noi Darwin Pastorin. Buongiorno Darwin. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Ecco. Allora c'è il tuo Brasile che non sta andando benissimo nella finale. Vabbè, è l'unico trofeo che manca. L'unico, ma non l'hanno vinto i grandi campioni del Brasile, da Romario, Ronaldinho, Roberto Carlos, però insomma, vediamo. Lo sport è anche questo, non sempre è la bellezza dello sport. Assolutamente. Bellezza dello sport che c'è stata anche oggi a Pechino, Darwin, perché alla fine è stata una bellissima partita, davvero bella, divertente. Polemiche sull'arbitraggio che io francamente non condivido tantissimo, ma poi questo naturalmente è un po' tutto da vedere, alcune volte si è un po' segnati dal tifo. E cosa ne pensi, Davide? Hai visto la partita? Hai visto questo Juventus? Sì, ho visto la partita. Beh, intanto il dispiacere per la scelta del Napoli di non presentarsi alla premiazione a Pechino in campo internazionale, insomma, questo è un modo non sportivo, perché poi puoi fare tutte le polemiche che vuoi dopo, ma c'è un rispetto per il pubblico, per l'immagine dell'Italia, no? Del calcio italiano all'estero. Poi, come hai detto tu, se noi guardiamo gli episodi uno per uno, bene, allora il rigore di Fernandez su Vucinic, beh, ci poteva stare benissimo, no? Naturalmente questo è uno degli episodi, hai ragione, il rigore di Fernandez su Vucinic. È stato un motivo, no? È un motivo di polemica. Poi c'era anche un intervento prima di maggio su Matri, no? Poi che non è stato sanzionato, però anche lì probabilmente ci poteva stare. Ci poteva stare, Claudio. Quindi voglio dire, poi il Pandev, che cosa ha detto al guardaline, non lo sappiamo, però vuol dire, non siamo di fronte a un guardaline che improvvisamente è diventato matto. Evidentemente si è rivolto in maniera pesante all'assistente dell'arbitro, quindi vuol dire ci sta anche questo, no? Poi cercheremo di capire, perché adesso ci sarà ovviamente la moviola sul labiale, il controllo, la parola, l'aggettivo, la frase, eccetera. E poi l'altra espulsione, doppio giallo, anche quella in un poteva stare. Fra l'altro con un fallo quello di Zuniga, che probabilmente poteva essere già sanzionato da solo anche per un'espulsione, fra le altre cose. Ecco, quindi voglio dire, è stata una partita voglio dire, dove possiamo star qui a discutere su questi episodi, però sono episodi secondo me anche abbastanza chiari. Alla fine ha vinto la squadra diciamo, più determinata. Una squadra che la Juventus aveva sicuramente cominciato male con quegli svarioni in difesa, prima Lucio che si fa scappare Cavani e poi l'errore di Bonucci su Pandev. Una squadra che ha saputo reagire, che ha avuto anche il miglior possesso di palla fino alla fine, una Juventus che è stata brava nei cambi, perché è giusto il cambio di Matri con Vucinic, che è stato l'elemento determinante, il montenegrino poi della vittoria della Juventus, e quindi alla fine ci può stare la vittoria della squadra bianconera, che continua in questa serie positiva con l'unica ombra della finale, sempre col Napoli di Coppa Italia. Sul Napoli noi possiamo dire che ha dimostrato di essere una squadra in grado di puntare nella prossima stagione allo scudetto. Assolutamente, infatti queste sono le note positive per il Napoli. Napoli che perde quello che era il suo giocatore simbolo, il giocatore più bravo, Lavezzi, però non lo mostra. No, non lo mostra, ma anche perché Cavani ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, tra l'altro dopo il gol si è aggrappato, si è attaccato alla maglia come per dire: mia, voglio restare qui. Vedremo che cosa farà il presidente De Laurentiis. È un giocatore che secondo me oggi è più bravo anche di Lavezzi, ha più continuità e se vuoi ha più estro. Il Napoli che ha fatto una buona campagna acquisti, Mazzarri è un ottimo allenatore, quindi il Napoli è una delle rivali scudetto per quanto riguarda, appunto, la rivale della Juventus per quanto riguarda lo Fra sport. L'altro Cavani, che non si è neanche riposato quest'anno, perché finito bravo. Il campionato, va alle Olimpiadi, fa le Olimpiadi non vanno benissimo, torna, riprende subito ad allenarsi con il Napoli, partecipa al primo trofeo, cosa che fra l'altro anche per i regolamenti avrebbe potuto anche evitare, avrebbe potuto chiedere qualche giorno anche di tranquillità, invece no, ha voluto essere presente e devo dire partita straordinaria quella di Cavani, l'abbiamo visto segnare, tornare in difesa, recuperare pallone in difesa, secondo me partita bellissima. Guarda, la partita è da 10 lode, come hai detto tu, lui dopo le Olimpiadi non ha scelto di riposarsi, ma ha chiesto di poter partecipare a questa finale di Supercoppa, gli fa assoluto onore. Poi è stata una partita veramente anche in inferiorità numerica, il giocatore che ha insistito di più, che fino alla fine ha voluto credere, è stato proprio Cavani, insieme a suo cognato Gargano, perché alla fine tutte e due si sono dati molto, molto da fare. Quindi voglio dire, questo è un giocatore esemplare. Diciamo che dovendo scegliere a distanza di tempo l'erede di Maradona, eccolo. Per quanto riguarda la classe, ovvio non è quella di Diego, però una classe cristallina, una classe, voglio dire, straordinaria. E poi per come sa essere leader, ecco, oggi ha dimostrato Cavani, senza più se, senza più ma, di essere in assoluto il leader di questo Napoli, più di qualsiasi altro giocatore, più dello stesso Hamsik. Dopo aver rubato lo scudetto al Milan, ha rubato la Coppa al Napoli. Niente di nuovo, Duilio, dei nostri ascoltatori che si dividono al 349-238-6666. Questi sono i messaggi SMS che arrivano. Un altro dice: ma lei che partita ha visto? Vada Juve Channel. No, non siamo a Juve Channel, siamo a Radio 24 e abbiamo parlato, come avete sentito fino a 10 secondi fa, molto bene anche di questo Napoli, in particolare di Cavani, che è un giocatore davvero che non può lasciare né il Napoli né l'Italia. No, è bello vederlo qui. È bello vederlo qui. E questo è il grande sforzo che deve fare De Laurentiis, quello appunto di non cedere alle sirene inglesi, alle lusinghe che arrivano ad esempio dal Chelsea, ma di mantenere Cavani. Poi per quanto riguarda, voglio dire, le critiche e i commenti dei tifosi, ci stanno appunto, perché, assolutamente, ma perché è anche il bello del calcio è questo, è bello anche dividersi naturalmente su cose non è che abbiano questa super importanza. Non entrando nel merito degli episodi, altro SMS che ci è arrivato al 349-238-6666, dice Jacopo: dico solo che in altri sport, vedi NBA, solo se non ti presenti alle interviste vieni sanzionato. Vi ricordiamo che il Napoli non si è presentato né alle premiazioni, né, questa è la prima volta che succede, né anche alle interviste del dopogara, silenzio stampa per il Napoli. E poi ancora: il mondiale ogni due anni e il calcio tornerebbe ad essere uno sport vero. Bruno Partenopro si definisce Bruno. Una domanda qui, una domanda di servizio sulle Olimpiadi. Dice: scusate il disturbo, quando ci sono le partite di pallanuoto e di pallavolo? Domani pallanuoto finale, qui ci viene in aiuto Franco Piantanida in redazione, pallanuoto finale alle 16.50, pallavolo invece alle 10.30, naturalmente sono orari italiani questi. E poi ancora un altro che riguarda invece il Milan, abbiamo accennato a Pato poco fa parlando della finale Brasile-Messico, sempre in vantaggio il Messico per 1-0, siamo al 69esimo, dice: Milan smantellato e demolito, vergogna. Darwin, proviamo a parlare però anche della Juventus. Io ho visto da rivedere un po' il reparto difensivo. I due gol del Napoli, onore al Napoli perché grande pressione ha fatto il Napoli giocando di rimessa, sono arrivati comunque da due errori difensivi. Ripeto, poi c'è da capire quanto questi due errori difensivi siano stati veramente due errori o siano stati un merito del Napoli per la pressione che ha fatto, però comunque ho visto un reparto un po' da rivedere. Sì, come ho detto prima, sul primo gol c'è stato un buco in mezzo e Lucio si è fatto scappare Cavani. Sul secondo, quello di Pande, tra l'altro bellissimo, poi il tocco finale del Macedone, c'è stata una leggerezza di Bonucci. Però sai, noi stiamo parlando di inizio stagione, di una partita se vuoi atipica a Pechino, sotto una pioggia battente e continua, con squadre che probabilmente cambieranno ancora il loro volto. La Juventus sicuramente, malgrado questa vittoria, continuerà a cercare un attaccante, anche perché la prestazione di Matri oggi è stata così, e ci sono giocatori ancora nel mirino della società di Marotta che potrebbero arrivare. Sicuramente è una Juventus che deve ritrovare i meccanismi e gli automatismi dell'anno scorso. Però sai, quando giudichiamo queste partite dobbiamo sempre giudicare tenendo presente il momento della stagione. Sono due squadre che sono passate dalle amichevoli estive al primo impegno importante, quindi insomma parliamo di squadre che adesso, voglio dire, la Juve sta festeggiando, il Napoli sta recriminando, però sono due squadre che cambieranno ancora il loro volto e che saranno diverse all'inizio vero della stagione, che è quello del campionato. Darwin, prima di lasciarti, naturalmente un commento anche su queste Olimpiadi. Hai fatto un bellissimo libro per Editori Riuniti sulle cinque meravigliose storie olimpiche. E invece che storie hai trovato e hai visto e ti piacerebbe raccontare di queste Olimpiadi di Londra? Ma ci sono tante, tante storie che sono storie positive anche da parte dei nostri azzurri, quelli meno da copertina, ma che come al solito ogni 4 anni riescono a farci sognare, perché ci sono ragazzi che sono strepitosi. È chiaro che poi alla fine, ad esempio, anche la storia di Rudisce, la storia di tanti altri campioni, sono tutta materia per cercare per poter raccontare delle storie, anche se alla fine, Claudio, la storia più bella sai qual è? Quale? Quella della Idem. Ah, meraviglioso. Perché, voglio dire, stiamo parlando veramente, quando parliamo di atleti, di sport, perché voglio dire, i giovani va bene, perché anche la ragazza Jessica, 99 su 100, è stata strepitosa, no? A 20 anni e tutto, ma qui abbiamo una donna che rappresenta la purezza dello sport, e quest'anno purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con una storia bruttissima, ma che veramente è da raccontare nel libro delle meraviglie, perché queste Olimpiadi portano voglio dire il nome, l'orgoglio, la volontà di questa donna, che non ha vinto medaglia questa volta, però che ha dimostrato di essere veramente fantastica. Assolutamente sì, troveremo la maniera magari di raccontarla insieme. Darwin, dei prossimi giorni qui a Tempo di Sport, magari proprio insieme a te. Intanto ti lascio con alcuni sms. Uno che ci dice: fate pena come l'arbitro Mazzoleni, dice Sergio, ma adesso non esageriamo. È un'opinione, sono opinioni, naturalmente nessuno, certo qualche errore magari c'è stato, però non mi sembravano così trascendentali. Ecco, io l'unica l'unica cosa è sicuramente l'espulsione di Pandev, che probabilmente ha anche cambiato la partita, quella magari si potrebbe rivedere, però per il resto non mi è sembrato così un arbitraggio così sfacciatamente pro Juve. Ma Darwin, dovremmo abituarci a queste cose naturalmente. Grazie Darwin Pastorin. Grazie a te Claudio, grazie a tutti, grazie anche ai tifosi che stanno criticando. Aggiornamenti dal calcio olimpico, perché sembra davvero stregato il titolo olimpico e la medaglia d'oro alle Olimpiadi per il Brasile, 2-0. Adesso il Messico conduce sulla squadra, sui brasiliani. Andiamo a sentire subito Dario Ricci, che è lì a vedere la partita. Clamoroso, clamoroso Wembley, siamo al 76esimo, Messico 2, Brasile 0, Messico 2, Brasile 0 e l'oro olimpico per i verde-oro adesso è davvero lontano. Al 74esimo è arrivato il raddoppio messicano ancora con Peralta, punizione dalla destra di Fabian, il cross al centro, Peralta completamente solo al centro dell'area di rigore, di testa ha battuto Gabriel. E dire che il Messico era andato già vicino al raddoppio al 63esimo con una traversa dello stesso Fabian dopo un contropiede, ora espulsione del Brasile, palla che termina in calcio d'angolo, traversa di Fabian in rovesciata dopo un'altra azione in cui era stato Thiago Silva a commettere un grave errore in disimpegno difensivo, mettendo in difficoltà il portiere Gabriel. Fabian ha compiuto questa incursione e rovesciata l'ha colpito la traversa. Brasile irriconoscibile, 4 minuti prima del gol al 60esimo è entrato Alexandre Pato al posto del disastroso Sandro. Brasile praticamente a 4 punte con Neymar, Hulk, Pato ed Oscar, ma il Messico non ha mai perso la calma, è sempre stato pungente in contropiede e è arrivato adesso al raddoppio, un raddoppio che a questo punto è quasi una sentenza su questa finale olimpica, Claudio. Ecco, non è, siccome è uno dei tuoi pronostici, Dario, quindi ci sentiamo prima della fine della partita per capire se questa volta l'hai azzeccato, ok? Devo dire che io sulla finale di calcio non m'ero ancora espresso. Ah, ecco, quindi okay, sono in franchigia, quindi sono sicuro su questo pronostico. Gli altri tutti sbagliati, qua aspetto il risultato. Va bene, a fra poco Dario, allora per la finale, il risultato finale di questo Brasile-Messico. Conduce il Messico 2-0 per la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Qualche ascoltatore, 800 24 00 24. Naturalmente il tema principale è questo Juventus-Napoli e le polemiche che ne sono seguite. Juventus che ha vinto 4-2 la finale della Supercoppa e che si è aggiudicato il trofeo a Pechino, primo trofeo della stagione fra le polemiche. Giorgio da Ancona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto condivido l'impostazione che state dando al commento di questa partita, trovo assurdo, fra l'altro volevo un vostro pensiero sul becero anti-juventinismo che oggi è venuto fuori dalla trasmissione Rai, una cosa clamorosa per noi che paghiamo il canone, non è il caso vostro che siete una radio privata, però era giusto dirlo, veramente vergognoso. Un'altra cosa le chiedo, il signor Abetri che è sempre molto veloce quando vede bianco-nero, lo Speedy Gonzales, in questo caso cosa prevede il Napoli? Che non ha partecipato alla premiazione, non sarà il caso di penalizzare questo signor De Laurentiis? Io la ringrazio e noi juventini continuiamo a sentirci dei ladri e andiamo avanti così. Grazie. Va bene, grazie Giorgio. Beh, non so adesso se ci siano delle sanzioni o meno, certo non è bellissimo, non è bellissimo. È arrivato anche un sms ancora, 349 238 6666, fra gli altri molti che ci accusano di essere troppo vicini alla Juventus. In questo caso noi cerchiamo di essere solamente obiettivi e naturalmente non stiamo da una parte né dall'altra. Ci piace lo sport, ci piace il calcio in particolare e ci è sembrata prima di tutto una bellissima partita. Poi naturalmente magari qualche errore c'è anche stato, ripeto, io sono molto dubbioso sull'espulsione di Pandev, questa forse si poteva anche un po' evitare, tante volte succede che ci si lasci scappare qualche parola, magari qualche volta gli arbitri o gli assistenti, in questo caso pare l'assistente, magari se si possono anche tappare un pochino le orecchie, diciamo così. Però ci è sembrata prima di tutto una bella partita. Di un altro sms, non sono juventino ma da italiano, a prescindere dai presunti errori arbitrali, che vergogna il Napoli che diserta una premiazione all'estero. Ma vi immaginate una cosa così nel rugby? il Napoli come minimo deve essere escluso dalla prossima Coppa Italia, se la federazione seria dice Enrico, adesso non esageriamo. Naturalmente non è stata una bella scena, ma insomma, ripeto, davvero, non esageriamo. Ancora un ascoltatore, 800240024, Michele da Modena. Buonasera, io volevo intervenire perché sto sentendo delle scempietà, cioè, non so che partita avete visto, sia voi che il vostro ospite precedente. Darwin Pastorin, che fra l'altro ha diretto una televisione e tutto sport. Eccoci. Le chiedo scusa, ma l'espulsione di Zuniga, se lei avesse visto la partita, sono partiti da due falli subiti da Zuniga addirittura. Il primo, il primo. Non sono stati fischiati, è una vergogna. Il suo ospite precedente ha giustificato il rigore, se ci poteva stare, l'espulsione di Zuniga, il secondo giallo, se ci poteva stare. Tutto poteva stare. E il Napoli ha fatto una cosa bellissima. Ha sono detto, d'accordo. Volete questa coppa? Prendetevela. Ve la regaliamo. Ah no, mi scusi, su questo no. No, sono d'accordo sul fatto che il Napoli abbia giocato una bellissima partita. No, qui non sto parlando. Cioè, il Napoli ha regalato la partita perché ha tirato giù Hamsik e Cavani ha sbagliato due assist che ha tirato. Lì ha fatto un gran regalo. Ma un arbitro, sei arbitri, ci vuole la moviola. Sei arbitri faranno più confusione di quattro che ne facevano più confusione di due. Vedrà la fine. Allora, ci vuole la moviola. Oggi è stato, era già scritto, che la Juve doveva vincere. Questa Juve non va da nessuna parte. Questa è una mia piccola previsione. Questa Juve qua, senza gli arbitri, non va da nessuna parte. La premiazione più bella che ho visto io questa sera è stata degli arbitri, perché sono loro che hanno vinto. È uno scandalo, è uno scandalo. Mi dispiace per il calcio, mi dispiace. Questo è il mio sfogo e mi dispiace anche che Radio 24, io ascolto sempre Radio 24, sempre. Cioè, si permetta di dire delle cose con degli altri. Cioè, l'espulsione di Zuniga è venuta a conseguenza di due falli subiti da Zuniga che dovevano essere schiacciati. Il primo intervento, ma naturalmente quel cartellino non è stato sanzionato per il fallo, è stato sanzionato poi per il comportamento di Zuniga. E il secondo fallo, secondo me, era un fallo assolutamente da ammonizione, se non di più. Ma queste naturalmente sono idee, opinioni. Il calcio è bello anche per questo. Michele, grazie in particolare di ascoltare spesso Radio 24. Naturalmente siamo aperti a tutte le opinioni, anche a quelle che non sono esattamente vicino a quello che pensiamo, anzi ci fa piacere. Il calcio è bello perché possiamo parlarne. Intanto Carlo Morfetta, che ha vinto i quarti di finale nel Taekwondo con il cinese Liu Xiaobo, e quindi aspettiamoci un'altra medaglia. Tanti anche gli sms che continuano ad arrivare, molti contro la Juventus, juventini non sportivi. Ora si è capito perché la Juve non ha segnato la maglia numero 10, la darà ad ogni partita all'arbitro di turno, dice Michele. Perché non vengono spiegati dagli arbitri, da un portavoce della categoria, i motivi che portano alle loro decisioni, poi gli errori si accettano meglio, dice Luca. Questi messaggi che arrivano al 349 238 6666, le telefonate allo 800 24 00 24. Naturalmente polemiche che ci porteremo avanti non soltanto oggi. Noi adesso cambiamo un attimo pagina, poi riprenderemo la Juventus e riprenderemo la finale di calcio che si sta svolgendo a Wembley, 84esimo, il Messico che conduce sul Brasile per 2-0. Ma ci prendiamo non una pausa, andiamo avanti a parlare di Olimpiadi e andiamo avanti a parlare dell'uomo che ha salvato l'atletica italiana. Buongiorno Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo. Buongiorno Fabrizio. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Allora Fabrizio, ha salvato l'atletica italiana? Ma io non mi sento un salvatore, io faccio il mio lavoro, faccio il mio sport con amore e cerco di dare sempre il massimo. E poi la mia medaglia è stata l'unica, sono contento da una parte perché comunque sia il meglio risalto, ma da una parte mi dispiace perché la tecnica italiana ha bisogno di medaglie, ha bisogno di campioni, ha bisogno di ragazzi giovani che vadano forte. Beh, anche ha bisogno di ragazzi di 36 anni che ci portino i risultati che ha dato lei, Fabrizio. Sì, questa è una cosa fantastica per me ovviamente, perché alla mia tenera età ancora riesco a essere competitivo a livello mondiale. Io mi sento giovane, che posso dirvi? Non mi sento un ragazzo di 36 anni o che non riesce a salvare. Chiaramente i risultati parlano chiaro, Io sono sempre competitivo in questi ultimi anni, ancora ho energie e ancora ho voglia di fare grandi cose. Prima di lei l'Italia aveva vinto soltanto un altro bronzo, ma bisogna andare molto molto indietro, eh? Città del Messico, Giuseppe Gentile, quindi Fabrizio ha fatto veramente una cosa storica, eh? Congratulazioni e complimenti. Sì, grazie. Sì, effettivamente ho riscritto un'altra pagina dello sport italiano, dell'atletica italiana, e questo per me è un onore, un'emozione ovviamente. Negli ultimi 10 anni più o meno nel salto triplo italiano abbiamo riscritto tutta la storia italiana del salto triplo, dalle categorie giovanili alle categorie assolute come la mia per esempio, dai record alle medaglie ovviamente. Questa forse è stata la ciliegina sulla torta che mancava da tanti anni, forse troppi anni. Fabrizio, ci racconta la gara, perché poi non è stata una gara facile, vabbè, come tutte naturalmente le finali olimpiche, però anche con qualche problema di crampi, qualche problema fisico, insomma non è stata una di quelle gare che dici vado e arrivo alla medaglia. Mi fa piacere che hai sottolineato questa cosa, che non è stata una gara facile. Più di qualcuno ha detto che la nostra finale forse era la gara più facile delle Olimpiadi. Io invece dico che negli ultimi 10 anni noi triplisti italiani siamo sempre nelle prime 10 posizioni delle graduatorie mondiali, e questo la dice chiaro ovviamente, e significa che siamo sempre competitivi e che il salto triplo italiano ha una grandissima scuola. La gara sì, è vero, è stata molto difficile e complicata, eravamo in tanti in qualificazione, quindi superare la qualificazione è stato lo scoglio sicuramente più duro. In finale, considerando le mie condizioni fisiche, purtroppo nell'ultimo mese ho fatto un po' di fatica. Il mio fisico mi ha mandato dei segnali, prima la schiena, poi il tendine d'Achille sinistra che si lamentavano e mi preoccupavano ovviamente. Capite benissimo che affrontare una finale olimpica con dei dolori, con dei fastidi non è il massimo chiaramente. Però ho cercato di stare calmo, ho cercato di tenere la concentrazione, e pur sapendo di aver perso un pochino di tempo, perché chiaramente con delle infiammazioni e con dei dolori un pochino di tempo l'avevo perso, ho sempre creduto di poter fare grandi cose. Fabrizio, le faccio ascoltare questa voce e poi dopo il traffico parliamo anche di quello che è un po' segnato questa Olimpiade, non solo per quanto riguarda l'atletica, per l'Italia. Psicologicamente per me è stata una mazzata, perché ogni giorno dovevo dire le bugie a mia fidanzata. Ogni giorno mi sono alzato alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, alle 5, guardando sull'orologio, perché sapevo che dalle 6 in poi può venire un controllo antidoping, dove dovevo dire a mia fidanzata di non aprire, perché sennò ero positivo. Lunedì 30 ha suonato a casa mia e io sapevo che era il controllo antidoping. Io non avevo più la forza di dire a mia madre non aprire, perché e dire, o se apri di che non ci sono, che io non ci sono, perché io lo potevo fare, perché forse chi sa la materia sa che in 18 mesi uno può saltare 2 controlli. Io non ho mai saltato uno, però devo dire che non avevo più la forza e non vedevo solo l'ora che finisce tutto. 800 24 00 24, il nostro numero verde per mettersi in contatto con Radio 24. I messaggi SMS ne stanno arrivando tanti, in particolare naturalmente legati a Juve-Napoli e alle tante polemiche che ne sono seguite. 349 238 6666. Siamo con Fabrizio Donato, la medaglia italiana per l'atletica all'Olimpiade di Londra nel salto triplo. Lo ricordiamo, abbiamo ascoltato la voce di Schwarzer, una voce rotta dal pianto ma naturalmente segnata anche dalla colpa. Fabrizio, sì, non è bello ascoltare un Alex in questo modo, anche perché lo ricordiamo campione, lo ricordiamo vincitore di una medaglia importante. È difficile dire qualcosa, anche perché sì, condanno il gesto, perché è impossibile fare una cosa del genere, non lo capisco, non capisco come un campione come lui possa aver fatto una cosa del genere. Da una parte però mi dispiace ovviamente per l'uomo, per la persona che è. Alex comunque è un bravo ragazzo e sono sicuro che ha bisogno di aiuto. Pagherà la sua pena, sconterà quello che doveva scontare, ma nella vita si sbaglia, tutti possiamo sbagliare, e sono sicuro che tornerà comunque un ragazzo sorridente e tornerà a vivere normalmente. Fabrizio, e aggiungo solo una cosa, sì. Che spesso anch'io la notte mi sveglio, ma vi posso assicurare che il mio pensiero è quello di non vedo l'ora di andare al campo ad allenarmi per continuare a coltivare il mio sogno, è semplicemente questo. È detto da lei, che è riuscito a vincere una medaglia a un'Olimpiade magnifica, importante come quella di Londra a 36 anni, questo naturalmente è davvero bello. Fabrizio, cosa vuol dire a quell'età vincere questa medaglia, in particolare in un mondo dell'atletica italiana che purtroppo, come ha accennato anche lei all'inizio, non è che esprima tutti questi talenti? Beh, vuol dire tanto. Intanto io sono ancora fiducioso perché abbiamo ancora qualche italiano in gara, e in particolar modo Lisa Ricaudo, che questa sera, se non sbaglio, affronterà la sua avventura olimpica nella marcia, quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e forza Elisa. Sì, fra pochissimo nella 20 chilometri la Rigaudo, quindi da seguire. Quindi forza Elisa, la mia collega delle Fiamme Gialle ovviamente, dai forza. Sì, l'atletica effettivamente è un po' in difficoltà, i risultati parlano chiaro. Io però vedo del movimento intorno a noi, intorno a me, c'erano dei ragazzi giovani che stanno per emergere, che stanno per arrivare, e noi li stiamo aspettando. Uno fra tutti, Daniele Greco, il mio compagno d'avventura olimpica, quarto alle Olimpiadi a 23 anni, è una grandissima cosa. Posso solo dire che ci sono dei ragazzi giovani che stanno crescendo e sono molto fiducioso. Fabrizio, grazie. Fabrizio Donato, medaglia dell'atletica, la medaglia italiana dell'atletica a Londra 2012. Grazie, naturalmente ancora grandi complimenti per quello che ha fatto e per l'emozione che ci ha fatto vivere. Grazie a voi, grazie per il tempo che mi avete dedicato e spero di sentirvi presto. Assolutamente, Radio 24 sempre vicina allo sport e al grande sport, ma andiamo subito da Dario Ricci, perché in questo momento c'è stato il fischio finale alla finale per l'oro del calcio fra Brasile e Messico. Dario. Fischio finale in Messico, oro al Messico che fa festa sul prato di Wembley, disperazione per i brasiliani, è finita 2-1. E gli ultimi minuti sono stati l'emozione pura, perché al 90esimo Hulk ha accorciato le distanze per il Brasile, riaprendo una finale in cui i verde oro non sono mai stati in partita. 2-1 con un diagonale dal limite dell'area piccola. Il Messico al 91esimo con Fabiani è andato vicino in contropiede al 3-1 decisivo, ma poi al 92esimo, all'ultima occasione, cross dalla destra, colpo di testa del brasiliano Oscar dalla area piccola, a due passi dal portiere Corona, palla sopra la traversa, e questa è stata l'ultima occasione per il Brasile di Menezes. Fa festa il Messico, decisiva la doppietta di Peralta al primo e al 74esimo minuto di gioco. L'oro olimpico spicca il Brasile, onore al Messico che però ha meritato questa straordinaria vittoria. E da Wembley è tutto. Grazie Dario. Abbiamo visto, onore al Messico naturalmente, abbiamo visto tanta invece delusione, Neymar con le mani nei capelli, giocatore fra i più promettenti della prossima nidiata brasiliana che arriverà in Europa, magari non in questa stagione ma forse nella prossima, è l'oro olimpico che sembra ancora stregato per il Brasile. Ancora ascoltatori, intanto Gianluca da Napoli, che hanno chiamato l'800240024. Gianluca. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io parlo da tifoso del Napoli un po' deluso. Quindi non sarà un buonissimo pomeriggio per lei oggi, Gianluca. No, vabbè, tuttavia siamo in vacanza, forse diciamo comunque siamo fortunati rispetto a tanti altri e sono considerazioni da fare. Comunque, la mia perplessità, al di là della partita di oggi pomeriggio, è che cosa succederà in un campionato animato da una forza così prorompente nei confronti degli arbitri e nei confronti della Juventus, quando arriveremo nelle fasi cruciali. Le squadre forti potrebbero essere più del singolo Napoli o della singola Roma. Il commento che mi viene da fare è: gli arbitri sono all'altezza? Non lo so. Sì, naturalmente queste lo chiedono, lo dicono anche tanti ascoltatori che hanno mandato sms al 349-238-6666, voci all'800-24-0024. Sentiamo Silvio da Napoli. Buonasera a tutti. Sono Silvio da Napoli, ovviamente tifoso del Napoli. Faccio una piccola premessa che non mi è piaciuta la decisione della società calcio sì, Napoli. Posso chiederle di spegnere la radio che sentiamo? Eccolo qua, eccoci. Allora, dico da sportivo, oltre che tifoso del Napoli, che non mi è piaciuta la decisione della società calcio Napoli di non partecipare alla premiazione, perché nello sport esistono dei valori più alti e più nobili del singolo evento, quindi non mi è piaciuto come decisione. Però accanto a questo devo dire che in 30 anni che seguo il calcio in modo intenso non ho mai visto in una partita della Juve che ha avuto delle decisioni arbitrali sfavorevoli. Questo mi lascia da pensare, ma al di là della singola partita, però vorrà dire che c'è effettivamente da parte della classe arbitrale un timore reverenziale contro questa squadra, che evidentemente non sono tranquilli e sereni quando devono prendere delle decisioni quantomeno discutibili al 50-50. Volevo invitare tutti a fare questo tipo di considerazione. Grazie Silvio, sì, queste sono altre considerazioni sempre che ci arrivano su questo presunto, naturalmente presunto, non è che possiamo avere delle certezze, comunque questo presunto strapotere della Juventus che è tornato anche riguardo agli arbitri, tanti gli sms che sono arrivati, dice un solo rigore in un'intera stagione, l'anno scorso nonostante ripetuti macroscopici casi contestano le decisioni arbitrali a senso unico, valgono solo se sono favorevoli alla Juve, siamo stanchi di questi attacchi. Questo è naturalmente Francesco, tifoso juventino. Sono arrivati tantissimi sms invece per quanto riguarda favorevoli al Napoli. Il Napoli ha fatto bene a non presentarsi alla premiazione, l'arbitraggio è stato scandaloso, il non presentarsi è stato un input per far capire al mondo intero come vanno purtroppo le cose nel nostro campionato. E poi ancora è partito la compensazione per la squalifica di Conte, poi altri sms che contestano il mio parere sul rigore che è stato dato alla Juventus. Naturalmente questo può essere solo un parere, perché la partita l'abbiamo un po' vista tutti, ognuno può farsi la propria idea. Un sms invece al 349-238-6666 che è arrivato riguardo alla vicenda Schwarzer. Abbiamo sentito prima Fabrizio Donato, l'unica medaglia d'oro nell'atletica, speriamo che se ne possa aggiungere una fra poco con Elisa Rigaudo impegnata nella 20 km di marcia proprio fra pochissimo, dice, ma figuriamoci se Carolina non sapesse niente. Naturalmente si riferisce a Carolina Kostner, la fidanzata di Schwarzer. Vabbè, speriamo che queste vicende di doping si chiudano. Noi chiudiamo invece con le parole di Campagna, perché domani ci attende una finale davvero storica per quanto riguarda la pallanuoto. Siamo stati più che straordinari, una partita difficile sia sul piano tattico ma soprattutto sul piano fisico. Sì, intanto era una finale che sognavo, con la Croazia di Ratko, perché Ratko se lo merita, un grandissimo allenatore, nonché una grande persona, un grande amico. Però dopodomani saremo avversari, loro hanno sempre dichiarato che sono qui per vincere loro, di sicuro noi non siamo qui per vincere l'argento, quindi sarà un'ennesima battaglia. E allora vi ricordo, Messico campione olimpico di calcio, la Juventus che fra le polemiche ha vinto la Supercoppa a Pechino battendo il Napoli ai supplementari per 4-2. Ricordo gli appuntamenti per quanto riguarda gli atleti italiani, Clemente Russo per la finale dei massimi 23-15 e poi Elisa Rigaudo fra pochissimo nella marcia. Grazie a Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Tempo di sport torna domani alle 17:00.